carino. Ehi, già lo so che ci sei tu. Yeah. Giulio, buonasera. Buonasera. E Antonio, sono a letto, su. Cos'è? Sei infuriato, sì. E ho preso un colpo, e mi fa male il piede, cazzo, sto male. Come un colpo? Lavorando? Sto accendendo i gasci di leva, si sono varato nelle scale, mi sono fatto male. Caspita, madonna santissima, ebbene non sei andato a farti visitare, potresti avere qualche frattura a me? No, no, frattura non c'è, gli ho messo una pomata, gli ho messo. No, ma tu dovevi andare a farti visitare, per vedere se c'è qualcosa di rotto, che vuole fasciato, vuole gessato, e che lo sa, boh. Ma non penso, perché lo muovo, se mi fa solo male basta. Lo so, appunto, perché ti fa male, qualcosa ti avrebbero dato, qualche antidolorifico, eccetera, e dovevi andare, così, non è che puoi stare così, no? Giappa, adesso mi hanno dato una pomata forte, buona, devo passare quella, devo passare. Mamma mia, ragazzi, non mi busso più, non mi busso più. Io credo, capita, non è una cosa così. Tu dovevi andare a farti visitare il pronto soccorso. Ti avrebbero dato qualche antidolorifico, qualche cosa ti avrebbero dato. Ti avrebbero detto di mettere la fasciata, di mettere l'immobile, insomma, qualcosa ti avrebbero detto. Ti avrebbero fatto una lastra. Ma non c'ho voglia, io già non mi sento bene, non sto molto bene, non sto di altro, mi sento un po' male, qui non ho voglia di andare da nessuna parte, capito? Adesso vediamo se mi passa bene, se no andrò pronto soccorso. Ma adesso non gli ho passato questa cosa, già mi ha dato un po' di sollievo. Ma adesso ti ha dato un po' di sollievo, d'accordo, tutto quello che vuoi, speriamo che ti guarisca subito, immediatamente, però il piede non è che ti puoi trascurare così, no? Non è una cosa che guarisce così in un attimo. Anch'io ne ho avuto delle sorte nel piede l'ultima volta, sono stato, ho guidato ormai 3 mesi che quando muovevo il piede sentivo delle punture tremende, poi già mi è passato col tempo, ma se sono passati 3 mesi prima. Cappa, mamma mia, sono con mare, sono chi è che vuole entrare avanti? Qualcuno che voleva entrare. Sarà Luca che vuole stare così in silenzio. Ma mia, c'ho questo senso di febbre, allucinante qua. Oh, yeah. Da poco fa, Santiago, tranquillo. Ah, va, tutto un colpo. Signore, cos'è su niente, bigliere? Cos'è che mi muove? L'effetto, cos'è su niente? Il mare si è sconvolto per l'effetto del piede anche lì, sicuramente così. Se non avevi niente, dopo da quel momento incominci a sentirsi male, l'effetto del piede è male, che logicamente il fisico non reagisce subito così, perché c'è il problema, capito? Cappa. No, vabbè, un pochettino di cose lo sentivo già da prima, lo sentivo un po' di cose, pure mi accendi chi si ingasci di leva, mi si... No, mamma mia, speriamo che mi passi entro domani, che domani sono al comunale, sono al teatro comunale, non a giocare con il cinturone, mi... capita, ma vedi, gonfiato sia il piede, com'è la caviglia, sei gonfiata, com'è? Ma si è un pochettino, il piede si è un pochettino gonfiato, si è, però non più di tanto, non più di tanto. Non più di tanto, sempre qualcosa ci vuole, non lo so, qualcosa ti avrebbero detto, ti avrebbero consigliato loro, una cura te la l'avrebbero data. Speriamo che non ci sia frattura, che sia solo questione di sorsione o cosa è, però non è così nota. Sei già una persona abbastanza pesante, robusta, e tu col piede così non è che puoi stare tanto tranquillo, no? Anche che guarire per dire in pochi giorni, così facendo così te lo trascini per più tempo. Ma via, via. Vabbè, speriamo di no. Adesso li passo questa cosa che mi hanno dato. E speriamo che guarisca. Beh, certo che sì, guarire già guarisci, già lo so che guarisci, ma comunque cosa vuoi che ti dica? Se stai così talmente male, perché ci sono, per cosa c'era tutto il tuo corso? Sicuramente ti avrebbe dato qualcosa per alleviare il dolore e tutto quanto, che è quello, che adesso è quello che ti frega, il dolore, e ti fa stare male per quel motivo lì. Fai prima muri che andava a pronto soccorso, punto. Ma ti sembra, Luca, a te che uno che si fa male così non va al pronto soccorso, ma prendisi. Forse lui non ci vuole andare, io ho capito perché non ci vuole andare, stava facendo dei lavori, probabilmente che non era. Però basta dire, racconto la bugia, stavi camminando, hai messo male il piede, non è detto che devi dire che devi lavare, non se proprio non glielo puoi dire. Dici che stavi camminando, hai messo male il piede e basta, scendendo da un marciapiede, cosa vuoi che ti dica? Ma non puoi stare così. Perché io ho problemi, se era successo al lavoro non ne avrei avuto problemi, c'è l'assicurazione che mi paga, quindi no, non ne ho problemi, il problema di quello no, il problema è che è successo fuori dal lavoro. Vabbè, anche se è successo fuori dal lavoro è uguale, non cambia niente. Stavo camminando per strada, sono qua giù in casa, insomma una scusa, un motivo glielo dai, un motivo che non ti possa nuocere a te direttamente, né a te né a nessuno. Mi sono fatto male, basta, devo essere curato, tutto lì. Sì, ma io ho paura a andare al coso, che ti fanno stare il minimo tutta cantarati, ti fanno stare in chimie, poi quando si lamentano ti curano, quindi preferisco, se è roba lì a vengono, preferisco stare a casa, perché so già il problema che va a nascere in modo soccorso. No, non ti assistono subito. E quando già lo so, ti fanno fare la fila anche di ore, già lo so, quello sì. Però cosa ci vuoi fare? Chiama il dottore tuo, vedi un po', prova a interpellare il tuo dottore, qualcosa ti dirà, qualcosa ti farà. Forse la soluzione migliore. Qualcosa ti dirà lui, anche se magari è un generico, che non è un ortopedico, sicuramente ne sa più di te, più di me, più di chiunque altro. Ma se parlo, dillo a lui, guarda che lui ti venga in aiuto. Sì, no, quello già sarebbe la cosa più giusta, sarebbe andare a pronto soccorso, ma non ci penso neanche, a meno che non sia proprio troncato, allora è diversa la storia. Appunto, il discorso è sempre quello, però non è poi causino, capita così, racconto così, tanto per dire, già passa, non vuoi passare, è chiaro che deve passare, però uno vuole passare in qualche giorno così, l'altro è passato magari, se ci vuole una fasciatura stretta o cosa ne so, o qualche gesso, boh, non lo so. Rigurore che sto succedendo ultimamente, mamma mia, non ne posso più, non ne posso più. Lo so, purtroppo ci sono dei momenti della vita sfortunati, già lo so, ma cosa vuoi fare, cosa vuoi giambà? L'unica cosa che devi fare è stare più attento, perché cercare di evitare qualsiasi incidente, non si sa mai. Cosa lo dici? Vedi tu, Anto. c'avevo il bambino, me lo sono tenuto io ieri notte. E beh, logico, ci devi stare con il bambino, è normale, no? Ero quello, ormai non c'è più la mamma, c'è il padre e devi essere tu ad averlo sempre vicino. Non è che lo puoi lasciare magari ai parenti, no? Tu ci devi essere sempre più presente di tutti, devi essere. Purtroppo anche io lavoro, è un casino, c'è un vicino sbattuto da una parte all'altra, ragazzi. E poi non so neanche bene di salute, molto, cioè, questi giorni non stavo bene, ero influenzato, cosa. Non ne posso più. Chiamalo soprattutto con quella scusa che non stai bene, chiamalo il dottore, per lui mi ho messo male il piede, sono caduto, insomma, con la scusa che non stai bene, sono influenzato, sono a letto, cioè, chiama il dottore a casa, cosa vuoi che ti dia, o tu. Non si occupisce niente, già lo sai queste cose che devi fare così. Chiama il tuo medico e così poi ti dirà qualcosa lui, no? Intanto ti cura il fatto che non stai bene e poi anche per il fatto del piede. Capo. Adesso un po' galletto. Vediamo, mamma mia, ragazzi. Cosa vuoi che ti dica? Non ho più parole, ragazzi. Non sembra questa tosse, che c'è un raffreddore, tosse. Va a pubeburi a burghisso, ma va a fanculo. Appunto, la dossa soprattutto, non è che ti puoi trascurare, mica ancora in giro per un virus, per un COVID ancora. Sì, magari può essere una semplice influenza, può essere, però non ti devi fidare, se sei a contatto con la gente sempre, non ci vuole niente a essere contagiati, anche se sei una persona robusta e fatta quasi di ferro, no, ma il discorso è sempre quello, bisogna stare molto attenti, se non è che puoi stare così, no. Fatti curare, perché ricordati sempre che curandoti in tempo la cosa si risolve subito e presto. Devo farmi curare, sì. Stavo lavorando stamattina. Stavo lavorando, ma sinceramente non avevo gana, avevo caricato un camion, ma non ne avevo voglia, sinceramente. Appunto, non è che uno quando si sente male basta, non è che il discorso è sempre quello, no? Non è che puoi cambiare molto. Quando uno si sente male, praticamente in quel momento è nullo, non va, è utile andare a insistere perché è ancora peggio. Cosa vuoi dire? Luca, digli qualche cosa tu, dai. Qualche cosa? Dai, sono in ascolto, ciao. E io che sei in ascolto, digli qualche cosa tu. Io gli ho detto quello che gli volevo dire, che gli dovevo dire. Poi pensa, prova a dividere tu, magari lo convinci a chiamare subito il dottore. Sì, ci siamo già sentiti al telefono, Giulio, prima di che entrasse in radio. Ah, ho capito. Allora, questo Luca, hai visto quelle fotografie che ti ho mandato? Se tu apri il sito, c'è ancora il sito su Facebook. Adesso. Hai visto? Ancora c'è questo. Anche questo risale a varie roba di 11 anni fa o di più pure, 12, 13, boh. Di preciso adesso non lo so, ma parecchi anni io, Luca. Ancora, pare che sia andendo, questa antenna. L'altro giorno mi ha fatto dei problemi, non si sono alzata le stazionaria. Non ti vedo a pigliare, tu con quell'antenna che hai, se salgo le stazionarie, quando piove non ti vedo a pigliare, perché è la caratteristica di quell'antenna. Dopo che si asciuga è tutto normale. Cioè, già lo so, è sempre stato così, anche se uno la mette a posto, la piazza come si deve, la isola dappertutto, però può capitare quando piove, si infiltra l'acqua, già lo sai, è sottile e passa dappertutto, per cui non c'è da meravigliarsi, con quel tipo di antenna è sempre stato così, tutte le volte che piove va bene, sempre stazionale, dopo che si asciuga è una bella antenna come tutte le altre. Eppure abbiamo fatto uno scherzo strano, l'altro giorno è tornata a ripiovere e non me l'ha fatto, strano. Perché dipende anche da quanta quantità di pioggia può fare, se piove un mese si infiltra dappertutto, se piove poco magari nel modo come è stata isolata eccetera, tiene, però se la pioggia è abbondante, è frequente, è ovvio, a forza di insistì, leva e basta, lo mattessi, è così, è quella che non ti preoccupare, quando c'è il stazionario non lo usi, la radio non la usi e aspetta quando si asciuga un po', e poi tutto ritorna a voi, non ha niente, l'antenna non ha niente, è solo quel problema di quell'antenna lì, è così. È un gioco, già. Sì. Adesso appena che sono libero e tranquillo, mi sono ghiero tanto, vai. La bellaccia sotto l'aeromobile è pronta. Appunto, perché tanto vedi, quando tu puoi te la cambi e così almeno risolvi anche quel problema lì. Se no, ma le maregante ti bisogna un'antenna leggera, come ti dice che va giù io, che ti dura la vita, non ti preoccupare. Naturalmente poi rinforzata, quando la piazzi, rinforzata come ho fatto io, anche se c'è il vento forte già tiene, la voglia se tiene. Va bene, ve la tanta niente. Beh, la gente, c'è gente che ce l'ha a Monte Oro addirittura, eppure è sempre a posto e funzionante. E stiamo parlando di Monte Oro, dove il vento è a 1000. L'ho già presa nuova, la 58, l'ho già presa. Se mi devo trovare solo il tempo per montarla, perché io sono sempre fuori, quindi. Beh, adesso non puoi salire sul tetto, lascia che faccia un po' di giorni buoni e poi avanti infortunato, vai che non stai a capo a stare con l'ubbidio di cimmi. Prima guarisci bene, da voi vai alla telecabituglia a piazzare l'antenna o ti fai aiutare, non lo so. Ma io già non faccio l'azzare. Appunto, malissimo, non ci salire adesso perché è già un grande rischio quando sale con i piedi sani, figurati con un bel zuppo. No, aspetta, non avere fretta. No, già, è una GPE della Sirio. Con radiale, c'ha tre radiali, tipo cosa ne so la Energy della Midland, quant'anna lì. Ho capito, sì, vabbè, una vale l'altra, non c'è problema, tu, ma tanto è quello che serve, che se un'antenna da 200 euro o da 50 euro, anda bene ma stessi, per lui va bene ugualmente, no? non te le mettere quei problemi, tanto per quello che ci serve va sempre bene, per cui no, il discorso è sempre questo, non avere altre ambizioni, cosa ti affutti, tanto non è più di chiuso, hai visto, siamo in quattro, siamo tutti avanti, e ora c'è cosa stai a fare lì a spendere magari tantissimi soldi per cosa, ma prendi tu l'antenna e 70 euro, tipo quella che hanno qualcuno che ce l'hanno anni eppure va bene. Sì, no, da ce l'ho già, ci vuole il tempo per piazzarla, ce l'ho già. Appunto, sì, tranquillo, aspetta, quando è possibile potetela installare e te la piazzi, è quello che è adesso, la togli, e poi ripeto, come antenna è buona, perché è buona, il problema è solo quello, hanno piubi, ecco, qual è il problema? Non sempre, però come antenna non puoi dire niente perché è buona, ma il discorso è sempre quello, ma se passa acqua è chiaro, l'acqua è maledetta, già lo sai, che può fare difetto. Come antenna la verità qualche soddisfazione, va bene. Ma te lo sto dicendo, come antenna è buona, quando è asciutta, come antenna è buona, e né più né meno come tante altre antenne, per cui non c'è problema. L'unico problema è questo, te lo sto dicendo, che poi tutte le antenne in un certo qual modo, almeno uno difetto tutte le antenne ce l'hanno, anche la migliore in assoluto. Per cui qui c'è un problema che quando è sbagliata ti crea queste onde stazionarie. Peccato che non hai un accordatore d'antenna, se no avresti potuto utilizzarla anche quando alle stazionarie. Con l'accordatore avresti risolto sempre il problema, anche quando piove. Sì, però sono stazionarie secondo me false. Perché io ho notato che l'apparecchio non ti scalda. Non ti fa nulla, capito? Beh, anche se dovessero salire a due le stazionarie, due, anche a due e mezzo, non può scaldare. Le stazionarie, l'apparecchio incomincia a scaldare quando comincia ad arrivare a tre le stazionarie, allora incomincia a essere pericoloso, rischioso. Ma quando ce l'hai sempre entro il limite, non ti succede niente alla radio, capito? Il problema è che come se arrivi al rosso. Quando c'è quella vignetta rossa nello strumento, quando riesce ad arrivare lì, allora comincia ad essere pericoloso per la radio. Già lo so, già. Adesso oggi manco si muoveva, l'ho guardato e andava bene. È strana la cosa. Dipende poi, cioè, se piove e cosa, cioè magari non li va in onda. E quando magari piove molto molto molto forte, a ridotto, allora succede che questa cosa qua. È così, infatti è quello che ti sto dicendo, quando piove fortissimo magari la forza stessa dell'acqua riesce a penetrare nonostante che è stata isolata bene, tutto quello che vuoi. E vabbè, comunque, non è la fine del mondo, interessante tenerti sempre sotto controllo, sempre sotto controllo le onde stazionarie, per cui tu per quello, quando vedi che ha piovuto, prima di usarlo, controllalo. E poi se vedi che ce l'ha uno o due, cioè che ha due stazionari, anche due e mezzo, non fa niente, tranquillo. È interessante che non arrivi a tre, perché se arriva a tre allora il discorso ricomincia a essere problematico. Lo so, lasci finale. Appunto, sì, che non è il problema. Magari perdi un po' di trasmissione, perdi, ma è ovvio, se ci sono stazionari in trasmissione perdi qualcosa, ma ti sentiamo lo stesso, non è che non ti sentiamo, ci mancherebbe altro. Io adesso appena che se si può, si piazza la nuova e via, a me è nuova. E appunto, però cerca di avere un po' di pazienza, non fare le cose affrettate, vado con un gabbo le cose, tu fate con un gabbo che hai un figlio, hai e devi stare attento a lui soprattutto, altro che antenna, Io lo so. E beh Luca, io a parere sì o no? Lo sapevi che a Luca gli hanno accorciato la lingua o a tu? E per quello non parla più, parla poco. Addirittura. La lingua si ha accorciato, lui stesso ce l'ha fatta, si ha accorciato la lingua. Addirittura. Luca, togli la lingua, faccela vedere. Poi la vediamo di Natalino. Natalino è duburo, è sempre in sordina, è sempre muto e duburo, è buono, non è possibile. Dopo entra al canale di morti. E allora, non lo sanno chi c'è il canale di vivi, e loro l'hanno cambiato per canale di morti, non è possibile. Cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi dire? Niente, d'altronde è così. È così. E lasciamo di fare, là. Però se non parliamo non ascoltano nemmeno, A meno che non si accontentano di ascoltare il rumore in fondo. Quello già lo sentono ugualmente, anche se non parliamo noi. Ad esempio Luca si tiene la radio tutta la notte accesa, no? Così se lo mette vicino e figli anche il sonno, lo sapevi? Così è. Così è, te me l'ha detto lui, me l'ha detto. Che le concilia anche il sonno. Tutta la notte, a medio volume, se poi si mette la cuffia, allora abbassa ancora un pochino il volume, però di solito dice con le cuffie quando mi giro mi dà fastidio, invece rimango così senza le cuffie, a medio volume, e mi concilia bene il sonno. Se no si entra anche in un assariato, ti piglia un colpo di biglie. E allora, lo so qui, a vai rendendomi, sotto che si mostrate lei, va, a vai rendendomi. Luca, avete cantato una canzone di Gantomi? Canzona? Le canto una canzone a Luca, così era ma così c'è da dare il sonno. Va a comprare il filaggio, c'è un gomodino che... Visto, dai, benzino, mi dai, così, anche se andando a letto adesso che ci sei costretto, puoi anche parlare, già va bene così. Commuto 2, stazione 2 e via, posso parlare lo stesso. Beh certo che sì, se c'è il commutatore d'antenna va benissimo, perché no? Certo che va bene. Sì, con il commutatore mi ha risolto un sacco di problemi. Beh, hai la possibilità di spostarti da una camera all'altra. Certo che sì, se hai fatto con l'applicazione lì, va bene, certo che va bene. E poi gli ho messo la cassa, mi sono comprato la cassa e l'ho messa nel comodino. Quindi sento bene, capito? Beh certo, così eravamo così in busta e fuori così. Cosa vuoi dire? Luca, ma non mi ha mandato la marca di quella radio rotonda che stavamo parlando ieri, che la senti a viva voce anche da lontano. Non mi ha mandato la sigla di quella fare lì che la prendono da Amazon. E a voi mi tengo, ho comprato quell'auto parlante della Midland, con lo suo originale. È logico che mi sento bene poi. Già lo credo. E poi a me mi sentono sempre bene, non è compreso. Che io non le faccio di pasticci e non modifico mai niente. Io vado sempre sulla naturale. Sempre, radio naturale e microfono naturale, senza pasticciare, va sempre bene, quando uno trasmette così va sempre bene. Sì, vabbè, anche io il microfono è il suo, è della radio, no? È originale dalla casa. Già va bene, infatti già se te l'avrei anche detto, già va bene, non c'è problema, te lo guido quando avrei. Meglio di così, cosa vuoi fare? L'MB4 ce l'ho nel 48, ce l'ho qua, c'ho il suo originale. Sì, ma già va bene, non c'è problema, va benissimo, anche col suo originale, va benissimo, no? Non c'è che dire. Pagappa. Luca, Lucchetto. Vabbè, tu sei giovane ancora, ti ti malavo di strapaganti e a rasa salita non hai inteso ancora, sai. Tu già sei giovane ancora, dunque. Ma io già riconosco, però, se ti malavo. Ma chi si giovani da fare di una banana sassarese non comprende un accame. Cioè, io sono allibito, sono. Oh, chi si giovani da fare non sa nemmeno quanto si chiama niente, ma te sì. Ma che ne dai, chi si sa nessuno di polverina. Se tu li fai mettere di polverina sono in tutto. Se ti domandi quanto si chiama domani non lo sanno nemmeno, il nome Giulio. Parlo di metà culo, la piazzando con la polverina. A me migliore di queste cose non ne voglio, manco il tindino ne voglio. A chi c'è bideggio. Io lo credo, ma la colpa è sempre dei genitori, la colpa è da tu. Se invece mi ha dato questa qualche puntata, al fondo schiena, vale a vedere che cresce di dritti e ben di destra di muro. Io lo credo che è così. Ma siccome ti voglio buoni corrigini, prima dei genitori, e poi dei figlioli, ma che intanto lo sappiamo che è così. Lo problema è chi vi è, che mi divorzi il babbo non può corrigire. La mamma invece, no, quasi non tocca, ti fate la faccia vea e tutto, cioè no, prima era così, prima ne bucava dalla mamma, da poi dal babbo. E non vedo Cristo, quella munizione della bigliava e boh. Ah va, pure chi si mammi da va, sono una massa di cazzi gatti, so. Cosa? Devi usare il polso duro, devi usare. Se no chi si deve andare in baronguro? Le mamme giovani oggi sono mamme di cacca. Cosa vuole? Devi dire. Oggi tutti la contente, le date le figlie, è da rovinarli. Lì devi educare e dargli quello che effettivamente le serve, ma non straviziarlo come fanno oggi. E da voi si lamentano quando sono mamme, che le bigliano e quelli ne burro la mamma o il babbo. Da voi si lamentano. Che non invadi Gilberto di cose del genere, non è così, no. Io sono garantica, se mi dai rispetto e vuoi bene a papà, ok. Se ti ieri mi sono subito di fare bene a culo, non ci penso su due volte io, perché no, non è così, devi essere educato, devi essere molto educato e molto tranquillo. Beh, io credo, ma non c'è bisogno di corrigirlo a forza dei gol, assolutamente no, sì, qualche cuore vita quando mi lo leggo io avevo, ma qualche cuore vita così veramente, però non ti vado a dire niente, non c'è gol, poco è questa faccia a capo, vari figlioli, come se che i figlioli sia carne da macello. È così, una mano a mano a mezza, una con le vita vale a vedere gli altri intendono la stessa, e poi basta solamente le parole, basta. A me il babbo non mi ha mai avuto babbo, la verità è che mamma ne manco, però quando mi ha dovuto corrigire, mi ha corrigito e mi ha fatto comprendere senza colpe e senza niente. A me e tutti i cazzi dei miei padri, noi siamo stessi e non avevamo un segno di contraddizione nessuno in tutta la famiglia. Hai detto no, perché vedi me? E già lo so, Guia. No, io... Io già ne ho giubilato, già. Ne ho giubilato. E forse mi ha insegnato pure qualche cosa. Indubbiamente. Indubbiamente da che cosa l'hai appresa, io lo credo, ma è così, è normale, no? Però oggi come te oggi, di modi bisogno, si teme bisogno, fa per comprendi, in modo che le parole si entrano mai in capo, ma comprendi che su che lo papo o la mamma ha un figliolo di dice, no, no, ma quello che c'è che c'è bisogno, si allora subito la contenta, non è possibile. E da voi si lamentano quando sono diventati delinquenti da mamme. Mica colpa delle mamme mie, la maggior parte delle volte, che magari i babbi vogliono pure fare qualche cosa, ma le mamme si muoiono in mezzo, non toccare, bomba, e poi magari si separano perché si ingazzano di burro. No, non è così, no. Uno anda e lascia un dorra, cazzo, che non c'è che non per i cattoli. Uno anda e lascia un dorra con rimane. Intendi, no, te lo posso sentire io, e non c'è pace, è punizione in muro. cioè, non è così, no, stanno rovinando questi ragazzi, per colpa delle mamme che son guasti. Che allora vediamo, hai visto come ti andano in giro a fare manifestazioni di baby gang? Ma è possibile, capita? E poi mi verrà visto minorenni tu. E ci sono persino che danno arruinati dei genitori, che l'hanno fatto diventare delinquenti, già dai vestiti di 10 anni. L'hai visto pure la salsa di chissà che fa che avviene il cucù, questo giovane in via Scano, che dove la vicenda, dai anni della vicenda, fa la ragione, cosa vuoi di triglia. È logico che si traccia in questo momento, che si è arrabbiato, della fianca di cui e invece la moglie si sono posti in 15 o 20 cantieri, la moglie è arrivata la mamma, tutto quanto, infatti lì sarebbe pure condannata da buon, come la giudice del giornale, che l'aveva condannata pure lì, la cosa aveva diffamato questo giovane. E dopo in casa sua, tranquillo, arrivava la chitarra che fa dei pezzini, si appoggiavano a buttare in casa sua e faceva nella BP in chibi. Che tutta la miege quando vede una cosa del genere, no? Sì, ma una cosa del genere te lo dico quattro voci, te lo dico. Ma poi prima delle galebore, ma poi si fa il magazzino, a me che fuggi, a me che non ne bici più tu, Gianna. A che ti veniva succio che manco quattro va così. E faccio un mezzo di giugano che se lo dici bombettone di bongo, la usando il pesce. Vabbè, io sì. Solo che magari la cosa si cade un adulto se vuole, incontra un pezzino, così da voi dalla base della ragione passi alla base dell'adulto. Purtroppo è così. Però gli arrivi molti di manifestazioni che parli, andate a fare le manifestazioni tranquilli, pacifici, andano in giro, incendiare le macchine, facciano i vetrini, non sei tranquillo, il negozio d'olio di lavorare tranquillamente, che arriva la banda, dei delinquenti, ti faccia la vetrina, magari ti faccia una vetrina e faccia un sacco di danno, senza avere motivo e niente. Questo cosa significa? Significa che i giovani oggi, la maggior parte, invece dalla cura delle delinquenti, anziché essere educati, invece dei delinquenti. Lo so, Guglia. E via dei corsi non ho combinato, perché mi diceva tutta la fame gasino sotto. Ma manco mi sporcavo più di tanto, no? Una notte, quella di chi si vede il gasino tutta farrendesi e cosa. Cioè, cazzo, hanno potuto dormire una notte. E uno, e due notte. Ha giumigliato uno di chi si bombettone, di chi si candelotte, mi ha giocuto. Beh, dal giorno non ci sono più tornati lì sotto a farmi casino. Ho giumito da... Sicuramente mi aveva lucernaio un muro, cioè... Da sopra ho giumito che c'è una caputata un muro dalla su che mi ha pigliato. Te lo dubbi, è un dato. Ma tu sei cagato? Lì non è combinato, Il cavolo non potevo dormire la notte, cioè mi erano in ghici, cazzo a far rendersi di osso, cioè picchiandosi di notte, cazzo, faceva casino. Giunta così, me ne ha già teso uno, ne ha già teso un tocco tremendo, ha tremato un barazzo. Dopo ti dico, bastardo, vaffanculo, bastardo. Oh, yeah. Ma ti fai subito. Giorno in via dei corsi lì, da giorno non mi sono più tornato. Io non credo, hai avuto paura. E la voce che ha discusso la damigiana di Rubino da Rubacone. Cioè, cazzo, non ne potevo più, cucando, e chi passava con una di chi si radia a tutto volume. Passava, non so se l'ha mai visto, un ghisù straniero, sotto la finestra, fammi il gasino. cazza e due, tre, quattro volte una libera, andava a mettere di meno per ricutare sopra. Mi ha tirato la bottiglia, dal giorno abbassava il volume. Ma è la biuda però, la luna migliana è la biuda. Cosa biuda? Viena. Che perché hai messo tutto l'umino, hai messo. Della Zerriaga. Ah, Zerriaga io, e allora? Ma dove? Non è possibile. Alla prima, proprio a tu. Quella mi va bene, era secondo piano, era, non si vedeva nulla sotto. Si che non si sapeva la gaina, così. Di gaina è stata migliaia, non si sapeva. Ormai a Sassà di Meccio è diventato come del Bronx, con tutti i gatti che stanno in questa che mi fa carità, uia. Sì, una notte che sono di sotto, cioè ha cominciato, siccome è mezzo dossico, ha cominciato con cassonetti e cose. Buonasera, restate, dal lampado tutto, dal lampado, non manco una mamma riesce a fermarlo. Ed è uno che sta dei chibi, il balazzo in disedu. E abitavo io. Ah, sempre lì di Viale Corsi. Yeah. No, che c'è tranquillo, tranne Adriano mi ha dato fatto il casino, quello di qua, ma vabbè, non lo sento perché sono in un'altra stanza. Insomma, con te non moccare, non moccare. Ecco, è che sono in questa stanza, gli ho detto una volta, gli ho detto, Adria fammi riposare, grazie a giocare di riposare in occhi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ti faccio riposare, yeah! Siccome ti non che fai cosa, Adriano, yeah! vabbè, già se lo merita di questi bastoni, fa carità. Tanto vede gli UFO, vede, e quindi si mette a voce di notte. E cosa vede? Gli UFO, vede? Ah, così è. Ah, degli CDP. Fa dire a cudendo un bilastro, ha detto patapu patapu, ha detto che mica gli ha battaggi cuto, ha battaggi cuto un daggio, e quindi mamma è di così, che cattarone a cudendo un bilastro, ha già mai andato bene da un bacone e si è appigliata con un bilastro. Più mancato di così uno lo può essere, appigliati con un bilastro. Non è possibile. Vabbè, dai. Vabbè, dai, a tu riposa, dai, vabbè. Io sacco, dai. E non lascio più male, vabbè, dai. A questo punto, cosa vuoi che dica? Ci sentiamo, tu. Ciao, ciao, tu. Guarisci presto, dai. Stammi bene, riposati adesso. E da voi, fate controllare che tu vedi. Così ero manco... ti muore secco subito avanti da Google Luca si aggrava i dammi, non lo so, ci sentiamo tu, ciao ciao, grazie per la chiacchierata, ciao ciao. E avanti già qualche luna avessi mi ulinghi appena appena, dico che c'ho il piede tutto messo male, fa così, fa. Ciao Giulio, ci sentiamo. Ciao, ciao, tu, ciao. Vabbè, Bisi, Bisi. E beh, Brigida. Ehi, Bubi. E beh, Natalia. Ciao, Manuè, buonasera. Grazie anche a te, tutto bene, sì. Non mi sento bene, no. Sono messo male. Vabbè, c'ho un po' la televisione, cos'è? Com'è sta vai? E altre influenze. Ok, fatto. C'era la televisione accesa. E l'ho spenta. E già intendo per la televisione accesa. Intendo per la televisione a te. Sì, lo so. E questo microfono è abbassato. Сообщение дальнобойщику. Автоматическое. Да, ДДС. Che c'ho lo squelcio, non senta nessuno, senta solo quelli che mi arrivano un po' furti, da, perché sennò tocca sentire il QRM. E io sono appena arrivato da lavoro, da stamattina, adesso domani sono di riposo e domenica allora io sono sei mesi. Sì, proprio in domenica. Io già cosa vuoi dire, cazzo tutta la vaga tu, la di andare è Capodanno, pensa tu. Sì, infatti, chi su travaglia così non conosce né fece né nulla. Lui lascia perdere, per carità. Ma per carità vero, cazzo di... Guarda, un lavoro da manicomio, quello detto, una tarica. Cosa, ma noi che c'era la 50 e stava rompendo le balle? Sì, basta che c'era nel bagno. Sì, ma no, va mia, giù va tu un cancello in chivi, in quintina, e c'era bomba in chivi. Sì, e allora Marco non mi dici lui, ma... Non so così, ammazza la o da voi? Sì, ammazza. Ammazza la subito. Ero indeciso, si ammazza la o da voi? No, che da voi vi ripensi. Guarda così, ammazza la subito. Impeto proprio. Però manco non può dire che è premeditato. L'ammazzo subito. E così non può dire che è premeditato. E me ne alzi ne rimango. Meno male di questi problemi non ne ho, che vivo da solo io, nessuno mi dice niente. E fai bene, fai bene. Oh, yeah. Arrivi, ah. Mi dice, buono la risa di una giocata che appaga. Ah, mi assento un attimo, Natale, che mi tocco la divisa. Figlia, dai, dai, già sono qui. Ciao, Natale. Chi è? Vittorio, so. Ciao, tu, buonasera. Buonasera. Cucca dal letto, che so gomare. Sì, io ero stesso così e so così. Guarda, mi sono abusato e ho acceso il baracchino, perché qua anch'io non sto bene. Sono un po' di giorni così che non mi sento bene. E quel telefono, dindindindi, sta facendo? No, mia moglie è col tablet. Ah. Gesù che... Bah. E cosa vai, Antutto? Bene, mi faccio male. Chiede? Ti ha giubilato un colpo. Mamma mia. Non sto bene, no? Se mi metto storna la pomata, vi ho messo, cioè è forte questa. Ma se c'hai dolore, pigliati un brufen, che te lo fa passare. Io lo mattessi a dolori e mi piglio uno di 10 brufen e mi lo faccio passare. Mi lo faccio dolore. Da voi dorra, Perché c'ho un dolore tremendo. Io ho preso un colpo forte, Che le pomate non fanno un cavolo, mi contro il dolore, è per quello che te l'ho detto. E dopo lo prendo, c'ho Lucchi, c'ho. Ando, papà. Lucchi, biglia di Rufen. Se vuoi ti do una bella supposta a me, che ti passa tutto. O chi sa dirà bene il duco. Dai, prendete voi un assento. Emanuele, per forza, lavora vicino alla cruca dove c'è quell'asino. Lui prende quella, amico Emanuele. È poche furbo. Ma chi sa fatti male, però? No, non fa male, no. Una volta che ci pigli la mano, può darsi che ti piaccia pure. Mi manda di un'ampulla. Chissà, Emanuele, non ha mai dolore. A chi ve l'ha in udire la cruca? In Chivi, dove lavora lui. Manuele è vizioso, non te lo guardare così, no? Una notte stavo smontando, ora a Bonorva ero, cattare due di notte, a un certo punto intengo che c'ho, E poi non vedono i line un po' vicino dove stavo smontando l'impianto. Stamattina cidiale, un po' di casino che fa. Ma che buono line tu mi? Però che è meglio del cavallo. Già lo so, io te l'ho mangiato l'asino. Non mi ricordo di averlo mangiato, boh. Sì, è buono, è già. L'aino è buono. E come se la carne di un cavallo, giuro che è più bianca, mica come carne. Ho fatto la mattessima nera all'incirca. E allora, un'andata e una durrada ed è cotta. Se ne trova poco, chi ce l'ha? Cosa? Di quella carne se ne trova poco. Ehi, a Virale la macelleria, infatti mettono il cartello perché non è che ce ne trovi molto, quando ce l'hanno già mettono il cartello, carne di asino. Però è buono, l'hai nido, chi su minori. Se ne trova poco proprio di carne di asino. Ma poco però me. A meno che. Vabbè, con lì forse sono carne equina, quello del mia garza, quello che si sale sul mio garzetta si direbbe a Maronia che vende solo carne equina. È una via lì dentro. Se non ce l'ha lui, ma è strano perché vende solo carne equina. Però magari ce lo potrebbe avere l'asino. Sì, proprio quelli ce l'hanno, allora. Allora bisogna prendere quello lì. Infatti candurà bisogna abbigliarla da ghisso, ce la vai a russo sulla graticola, un'andata una durrata, tanto è buono. Io credo che è buona, io. Verità, non mi ricordo di averlo mangiato. No, io già l'ho mangiato, sia il cavallo che l'asino, i misciadi, io, È buono, posso sotto l'uso agli apprezzemolo agli apprezzimolo che duro vorremmo rubare parole che duro e già è buona già una volta a quel circolo dove andava Alessio hanno fatto il cavallo e l'asinello mi ci siamo fatti a beffa. Sì, dove c'è sulla Carlo Felice, non c'è per andare all'alberghiero, dove c'era l'alberghiero lì, non c'è un circolo del cacciatore, lì andava Alessio. Ah, da Goso, non ti si chiama, da... se lui è un tipo grosso, Sì, siamo andati lì e la notte hanno cucinato il cavallo e l'asino. Cazzo, siamo fatti a beffa. Già ci ho compreso, cara. E pure i carabinieri sono giunti. E ci sono posati. Ami ha imboscato una macchina e ha mattato il volume della radio. Se chiamano stasera per qualche risalto su pettine, me ne tolgo il cricco. No. A niente era, no. No. Tu stai dicendo da... cavolo, sai, no, ma mi raggiungo tutti dimenticati, ga. Già li conosco, già. Anzi tu si richiamavano a chi ci parlavano Alberto Pettine sempre, no? E chiamavano a Elia se dai la risa. Sì, perché sono degli imbecilli. E infatti tu sei chiesto, stanotte chiamano. Me ne tolgo il cricco, non li picchio con manganello, no? La manca stai dicendo tu. Lui si chiama... il nome non me lo ricordo. E questa cosa è successa parecchi anni fa, mi è successa a tu. Sì, ma già li conosco a loro, li conosco. Cioè, riconosci tutti chi si circola. Sì, è il circolo del cacciatore, è successo. Mancumari che non hanno chiamato, l'hanno chiamato che andavamo in binito di magnacca, e ci sono due decidi, due poveracci. Purtroppo, sempre in casini. Meno male che almeno avevano mangiato, cazzo. lo so. Dopo sempre che fattura di fare risse, risse. Ma per carità, ma che non statene tranquilli. Cosa vuoi che ti dica? Non statene tranquilli. Purtroppo lì succedevano le risse al terzo pettine. Succedevano. Guarda che era un bar in Chivi, così è. Sì, era un bar di un su 5. In Chivi succedia nei